right. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata alla fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! E buongiorno carissimi amici, benvenuti a questo nuovo episodio di Buongiorno un cazzo. Do subito il benvenuto a Gianluca, Walter e Michela, che sono già direttamente in chat, pronti per ascoltare, mentre che fanno sicuramente le loro cose, questo episodio di Buongiorno un cazzo. Io riflettevo su una cosa, ragazzi, che a volte, ma dico a volte, prendo tempo intanto perché devo smanicchiare, sminchierellare, spingere pulsanti, fare cose, insomma. A volte c'è bisogno solo di questo. E vabbè, good morning. E diciamo che alla fine ogni tanto c'è bisogno anche di questo, no? Cioè, nel senso, di qualcosa che ci riporta, insomma, a svegliarci in maniera un po' più normale, ecco, diciamo così. Intanto diamo il benvenuto anche a Debora. Allora, ragazzi, questa prima parte della trasmissione è del tutto personale. Perché non c'è niente da fare. Io sono fatto così, ragazzi, mi frullano le cose, ribollono. Quando ribollono poi non c'è niente da fare. C'è qualcosa che è in mutazione, che è in cambiamento, che c'è qualcosa che non va, o c'è qualcosa che va diversamente. Perché poi è anche questa un po' la cosa, insomma, sulla quale possiamo puntare un attimo il dito, no? L'attenzione. Perché se noi guardiamo la stagione scorsa di Runtime in generale, questa radio che noi facciamo è stata una stagione straordinaria, forse più straordinaria rispetto al periodo del Covid, perché abbiamo fatto tanto, abbiamo lavorato tanto, la radio ha fatto una quantità di live veramente incredibili. Quando siamo arrivati alla pausa eravamo estremamente convinti in qualche maniera di avere bisogno di quel step di riposo per poi dopo arrivare a una condizione diversa, riprendere la forza e ricominciare la stagione non solo come l'avevamo lasciata, ma probabilmente anche accelerando, aumentando magari la nostra presenza sul Runtime, e quindi aumentando anche la quantità di live. Abbiamo cercato anche collaboratori, abbiamo cercato anche alternative, diciamo, a questo. In realtà poi l'estate ci ha un po' ammazzato, diciamo, da un certo punto di vista, no? Nel bene e nel male, anche giusto, perché poi evidentemente era quello di cui avevamo bisogno. E tutto quello che è l'apparato di Runtime ha faticato a riprendere il proprio percorso, e sono ripartiti tutti quei programmi che hanno una certa regolarità, ma insomma più dilatata nel tempo. Quindi quando eravamo Futuro, per esempio, come ieri sera, quando eravamo Futuro avevamo definito la cosa che riuscire a trovare una tematica e svilupparla in maniera buona in una sola settimana era veramente complicato, anche se eravamo in tre, no? E quindi praticamente la decisione è stata quella di dilatare la pubblicazione di quando eravamo Futuro, di andare in live una settimana sì, una settimana no. E diciamo che questa cosa accade anche a Runtime by Night, che è un programma diverso poi sostanzialmente da tutti gli altri programmi, mentre che tutte quelle cose che avevano quasi una quotidianità hanno sofferto in qualche maniera, hanno sofferto a partire. Guardate anche OGM stessa, noi adesso abbiamo ricominciato da due settimane, lunedì sera OGM Social Media Edition, abbiamo trovato questa formula che magari ne abbiamo discusso, magari non tutti eravamo in palla, però OGM per come era, ad esempio, anche se alcuni piaceva, alcuni un po' meno, ha faticato a ripartire. Siamo arrivati praticamente a novembre, poi fondamentalmente, per ripartire, e poi magari adesso prenderà la sua regolarità. E lo stesso Leo, che in qualche maniera è stato il motore propulsivo, diciamo la spinta, diciamo, che ha dato spunto a Runtime di prendere una sorta di regolarità, che è quella poi della mattina, no? Perché lui si era proposto di fare queste tre live, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e in qualche maniera pure con Michela ci siamo detti: vabbè, ma perché non farlo anche noi? Perché non trasformare Runtime in qualcosa di più simile a una radio vera? E quindi praticamente il martedì e il giovedì ce l'eravamo presi noi, sempre la mattina alle 7 facevamo queste trasmissioni. E poi c'è Walter con le orazioni della sera alle 8 di sera, quindi alle 20, il martedì, il mercoledì e il giovedì, che anche quello magari ha faticato, no, in qualche maniera a ripartire come tipo di programma, però poi dopo alla fine comunque ha preso una sua regolarità. Ecco, questa è una cosa che ho notato e che in qualche maniera mi ha fatto riflettere. Poi faccio le riflessioni come Leo Arghia, no? Dice: vabbè, adesso Leo giustamente dice, però io non ho più tutte queste energie da dedicare a questa cosa, oppure ho bisogno di dare priorità anche ad altre cose, e quindi dice il venerdì io lo lascio. Poi mettiamoci anche il fatto che in questo periodo è un periodo di grande trasformazione per me e Michela, il fatto di dedicare l'attenzione alla nostra salute, a questo percorso di personal training che abbiamo iniziato a fare, che comunque in qualche maniera ci leva energie perché si fa la mattina, insomma tutta una serie di situazioni che in qualche maniera ci hanno fatto cambiare, ci hanno fatto riflettere, diciamo, sul modo in cui noi facciamo questo progetto. Perché Runtime Radio, come sapete, non è una professione, non è un lavoro, ma è una passione, è un qualcosa alla quale noi dedichiamo tempo facendo cose che ci piace fare. E allora mi sono, siccome che poi voi l'avete un po' capita sta cosa, perché sì, è vero che io il martedì o il giovedì non riuscivo a fare Buongiorno un cazzo perché dovevo poi andare dal personal trainer, però alla fine ce l'avevo il tempo, però evidentemente io ho dovuto fare un po' di violenza su me stesso per tornare a fare questa trasmissione, che devo dire la verità, so che a qualcuno dispiacerà, ma è un programma che in questo momento non mi appartiene, è un qualcosa che in questo momento non è più mio, non lo sento. Quando l'altro giorno stavo cercando di fare un redesign anche, no, del logo, insomma, della copertina della trasmissione, cambiando anche la foto, cercando di mettere un qualcosa di più attuale, roba del genere, lo facevo e guardandolo non c'era qualcosa che non mi apparteneva più. Ma anche il titolo stesso non mi appartiene più, eppure era la cosa di cui andavo più fiero, no? Perché poi alla fine probabilmente in questo periodo di grande trasformazione forse sta cambiando qualcosa anche dal punto di vista psicologico. Cioè io penso che per fare un programma come Buongiorno un cazzo devi essere arrabbiato. E non è che io non sia arrabbiato, non sia critico nei confronti di quello che sta intorno a noi, però non è più il contenitore per me, cioè non è più la cosa che veramente mi appartiene. Se io devo esprimere delle mie considerazioni, dei miei pareri, una mia critica a questa situazione ideologica e politica estremamente particolare, lo posso fare insieme a Michela su Disordinati Informati, oppure prendermi un nuovo spazio la mattina, anche il giovedì anche il martedì e il giovedì, dove però faccio una trasmissione che non ha bisogno di essere preparata, perché non ho la forza e lo spirito e lo spunto di fare una trasmissione a Buongiorno un cazzo. Sono venuto qua stamattina pensando che io non avevo un cazzo da dirvi, non c'ho niente da dirvi. Sì che sono preoccupato della situazione, la guerra, il governo Meloni mi fa schifo, tutto quello che volete, però non ho lo spunto, non ho la forza in questo momento di guardare questa cosa con la rabbia o con la credine con cui penso di... E invece la mattina mi sveglio e ho un pensiero positivo, e voglio avere un pensiero positivo, e devo avere un pensiero positivo, perché fa parte di questo mio percorso, di questo mio cambiamento in questo momento, che mi sta aiutando tanto, non soltanto dal punto di vista della salute fisica, no? Cioè tu ti riprendi una sorta di spazio in qualche maniera che hai lasciato, anzi ti riprendi il tuo corpo, no? La tua fisicità che hai abbandonato completamente per anni per ragioni sconosciute o conosciute o da esplorare o non da esplorare, qualsiasi cosa sia. Oggi tu ti riprendi quello spazio, senti nuove energie perché hai ripreso contatto con la tua fisicità, e questa cosa ti cambia anche dentro. E quindi, nonostante essere preoccupato, essere arrabbiato, quello che volete, io la mattina penso più alla canzone dei Beatles che a Buongiorno un cazzo. Penso più al fatto che mi piacerebbe fare una trasmissione anche estemporanea, anche con 3-4 spunti intramezzati da canzoni, dove io esprima considerazioni o racconti aspetti magari di cose che ho vissuto, aspetti della mia esistenza o esperienze che ho fatto, cose sulle quali anche riflettere, anche psicologicamente o personalmente, individualmente, insomma, cioè nel senso, e anche insieme a voi fare un'interazione con voi, cercando di creare un dialogo su argomenti che possono essere anche suggeriti, no? Che sto qui a fare l'ocio da situazione, ocio, perché ho fatto un mischio con mocio, quello là dei cibi americani. E ecco, questo è un po', io penso al titolo, cioè domattina fa Buongiorno un cazzo, mi faceva ridere quando l'ho pensato, e stamattina quando è partita la sigla, ok, è una sigla che è vecchia, non è aggiornata, ci sono elementi dentro, e sento che in questo momento questa cosa non c'è niente da fare, raga. Questa cosa non mi appartiene più. Però, detto questo, facendovi capire che io mi sono proposto per tornare con Buongiorno un cazzo tutti i venerdì, e mentre che lo faccio mi sono detto, questa è l'ultima puntata. Lo so che l'ho detto tante volte, però se l'ho detto diverse volte significa che in qualche maniera percepisco questo. Però dai, comunque un paio di argomenti ce li ho, e uno secondo me lo capite da queste note. Il cane mi sta a guardare, ragazzi, mi sta a guardare, il cane sta lì, mi guarda, dicevo, ma che cazzo sei a fare? Ragazzi, grandi notizie dal mondo del calcio, insomma, sapete che poi alla fine è una cosa che a me piace, e quando magari riflettiamo tante volte con Walter Sbano sul fatto che ci sarebbe bisogno di un grosso reset, no? Grande reset, attenzione, quindi occhio ai complottisti. ci sarebbe bisogno di un grande reset che in queste condizioni, in un mondo globalizzato, fortemente economicizzato, dove ovviamente il capitalismo in qualche maniera è proprio entrato nel midollo di questa realtà che è quella del calcio, io penso sempre che oggi resettare significherebbe distruggere, no? Nel senso, comunque, e siccome io sono invece uno di quelli profondamente legati al calcio, questa cosa mi disturberebbe, mi darebbe fastidio, mi dispiacerebbe, mi mancherebbe qualcosa. Però oggettivamente bisogna riconoscere che sapete il contrasto ridicolo che noto adesso che stiamo vedendo questi mondiali, poi vabbè, molti non li stanno vedendo, in realtà poi alla fine molti di più di quanto ci si aspettasse li stanno vedendo, e questa è la cosa che tutto sommato dovrebbe essere sbagliata, cioè nel senso non dovrebbe essere così, no? Ecco, la cosa che mi disturba è che dal punto di vista della formula tu vedi un campionato del mondo dove c'è ancora la logica olimpica, cioè nel senso che c'è un'equità nel rapporto di partecipazione, cioè comunque è costruito in maniera tale che tutte le realtà siano più o meno rappresentate, no? Magari anche a discapito della qualità, poi chiaramente, perché insomma, chiaramente quando ci sono delle squadre tipo il Qatar stesso, ad esempio, per farci capire, che in Italia non giocherebbe in Serie C, no? Cioè nel senso, in un campionato competitivo come quello italiano non giocherebbe in Serie C, sta lì. Però dall'altra parte c'è un catafalco mostruoso che negli ultimi decenni è diventato più grosso della FAO. Cioè, vi ricordate quando si facevano le critiche alla FAO, che praticamente tutte le risorse della FAO andavano a finire a pagare tutti gli stipendi dei dipendenti, dei funzionari che erano sparsi in tutto il mondo? La FIFA, quindi il massimo delle federazioni mondiali che coordina praticamente tutto il calcio mondiale, è diventato un catafalco incredibile, talmente incredibile, con una quantità di debiti talmente spropositata che chiaramente oggi, ma questo è sempre successo, però oggi è soggetta a una corruzione che in questo momento è ovviamente sotto l'occhio del ciclone. Cioè non a caso 30 anni fa non si sarebbe mai fatto un campionato del mondo in inverno in un paese così contraddittorio come il Qatar, via dicendo, anche se nel 78 facemmo i mondiali in Argentina, dove c'era una simpatica dittatura che faceva sparire le persone a decine di migliaia, no? Cioè nel senso, comunque è vero che questo mondiale in qualche maniera ha squilibrato tutto, ha squilibrato i campionati, ha squilibrato tutta quanta la, insomma, l'ambaradam del calcio regolare, scombinando anche un po' alcuni regolamenti, facendo un po' di casino, semplicemente perché il Qatar e alcune realtà arabe hanno comprato metà del calcio mondiale, fondamentalmente, e lo hanno fatto in funzione di questo. Non è che gliene frega niente di comprare squadre di calcio o investire soldi nel calcio internazionale perché vogliono vincere, no, loro volevano arrivare a questi risultati qua, a dire da oggi in poi ci siamo anche noi e queste cose si fanno anche da noi, e nel farle ovviamente da noi succede tutto un po' un paratrà, un patatrac, chiaramente. Però il calcio, come dice Walter Sbano, e bisogna un po' ammetterla sta cosa, è arrivato al limite estremo di una malattia incurabile che merita in qualche maniera uno sbracamento, ma uno sbracamento pesante, perché comunque dovete considerare che in Italia il calcio è un'industria, ed è un'industria anche importante, che crea indotto, crea dipendenti. Non crea solo fatturato, ma dà da mangiare a decine di migliaia di persone. E questa è una cosa che non va sottovalutata. Però quando il calcio vuole sempre di più, vuole crescere sempre di più, vuole far girare sempre più soldi, si vuole arrivare sempre a certi determinati risultati, è chiaro che si arriva a un momento in cui il sistema non è più in grado di autoreggersi, e quindi ecco che si cercano altri finanziamenti, altri soldi per i diritti televisivi, la Superlega. Ma tutto questo perché? in particolare in Italia. Quindi se siete juventini smettete di ascoltare, perché io vi voglio bene, voglio bene ad Alex Raccuia, voglio bene a tutti, però questa è una cosa che bisogna dirla: perché in Italia il calcio sta crollando? Sta crollando perché noi per 10-15 anni abbiamo rivolto tutte le nostre risorse, abbiamo cannibalizzato tutto quello che è il mondo del calcio, i finanziamenti annessi e connessi, per dare la possibilità alla Juve di vincere una Champions League che non ha mai vinto. Quindi noi abbiamo concentrato tutte le nostre risorse sulla Juve, facendo fare alla Juve qualsiasi cosa gli potesse venire in mente, ma poi a un certo punto tutto scoppia ed ecco qua che insomma la nostra carissima signora, la simpatica signora, quella insomma che tutti amavano e rispettavano, oggi si trova in una situazione che possiamo definire di merda. Penso che possiamo definire di merda, perché chiaramente oggi non è più soltanto la Procura federale e il calcio che influisce sulla Juventus, ma qui stiamo parlando di processi penali, di consigli di amministrazione che si dimettono in blocco. Ma poi ragazzi, Pavel Nedved, ma che cazzo hai combinato nella vita, Pavel? Cioè, ti abbiamo portato a Roma che mangiavi pane e cipolla, e alla fine sei finito a fare il servo di una realtà che è completamente aliena al tuo mondo e che oggi magari ti porta pure in galera, perché cioè, se ti sei talmente assoggettato a quel tipo di filosofia de mondo, che è veramente boh, non lo so. E sapete che vi dico? A me poi alla fine, quando ero ragazzino, e qui chiudo questo argomento che così tanto non ci frega un cazzo a nessuno alla fine, io quando ero ragazzino c'avevo mia zia che era dalla Juve, ma io sono sempre stato, lo dico, questo è un momento personale mio, sempre stato un antiromanista, a me mi stavano sul cazzo perché quando ero a scuola erano tutti meglio dell'arte e roba del genere, no? E quindi mia zia era dalla Juve e io da ragazzino ero dalla Juve, cioè nel senso, ma non perché ero dalla Juve che mi interessava essere dalla Juve. Poi ho fatto un mio percorso, ho conosciuto delle situazioni, io ho scelto la mia fede calcistica in un momento drammatico di quella realtà, di quella della Lazio, no? Un momento drammatico che però l'ho vissuto con talmente, c'era una poesia dietro, che alla fine ho fatto quella scelta lì, no? Però alla fine comunque la signora bisogna riconoscergli che in qualche maniera, forse in qualche maniera l'abbiamo anche rispettata un momento della nostra vita, però boh, non sei più la signora. Ah, Loredana Bertè, una delle donne più incasinate, impicciate, drogate, impassiccate, pazze, folli, meravigliose della canzone italiana. Con questa canzone, non sono la signora, dedicata alla Juve, insomma, l'abbiamo dedicata alla Juve. Ma parliamo di un'altra cosa molto molto interessante, cioè così andiamo un po' anche a sbirciare altri argomenti, torniamo un po' a quello che magari era un po' buongiorno un cazzo, ci dovesse venire la voglia di continuare a farlo. Però intanto ringrazio Debola perché mi sta dando degli spunti tutto sommato molto molto interessanti. Perché no? Perché no? Perché secondo me poi alla fine tante volte noi ci impelaghiamo alla ricerca di titoli, cerchiamo di fare cose articolate, invece secondo me pa, la botta secca, una parola secca, pa, che ti porta a fare un programma che in qualche maniera non è così condizionato dal titolo stesso, cioè sì lo è, ma non così in maniera devastante come buongiorno un cazzo. Cioè io buongiorno un cazzo devo venire qui a farvi bestemmiare a tutti di prima mattina, non mi appartiene più. Comunque sapete insomma tutta questa storia del governo Meloni, che Leone, sì, magari Leone, governo Meloni, che praticamente non è un governo politico ma è un governo ideologico, cioè è un governo che è nato per buttare lì nei primi 100 giorni della sua esperienza tutte le stronzate che hanno sparato in campagna elettorale in modo da dire comunque, vedi, noi stiamo facendo questo. Poi che questa cosa magari è anticostituzionale e viene completamente abolita, diciamo, nel corso, insomma, dei vari procedimenti. E infatti ragionavamo ieri con Walter il fatto, voi immaginate tutti i tecnici dei ministeri o comunque i tecnici parlamentari che in questo momento stanno lavorando per far capire a questi, cioè, ragazzi, sta roba non si può fa, non si può fa. Ma questo ci riporta un po' a far capire a tutti, io quando cerco di parlare pure con i ragazzi, no, roba del genere, noi critichiamo la struttura costituzionale del nostro paese oggi, ma questa struttura costituzionale, il modo in cui è stata pensata proprio perché si sapeva che prima o poi sarebbe arrivato qualcuno a rompere i coglioni anche a quelli che sono i nostri diritti costituzionali. La Costituzione è stata costruita in quel modo proprio per quello, per difendere se stessa, per proteggere se stessa, per proteggere la Repubblica da tutti quegli atteggiamenti, da quei comportamenti eversivi, sovversivi, antidemocratici, atti alla restrizione piuttosto che alla partecipazione sociale. Poi è vero che in 30 anni abbiamo distrutto la cultura in questo paese, abbiamo distrutto completamente l'educazione in questo paese, quindi è chiaro che oggi la gente non sa neanche come funziona la Repubblica e quindi pensa che un capo del governo debba decidere, capito? E tutto il resto è intralcio al suo grande operato. Ma voi immaginate semplicemente se ci fosse stato un federalismo, ma neanche, perché poi noi vediamo il modello del federalismo americano, ma neanche in America il presidente è il re. Ma giustamente, perché il presidente può anche fare un atto esecutivo, ma comunque le camere glielo possono stroncare, la Corte Costituzionale stessa glielo può stroncare. Pensiamo alla Francia. Perché noi c'avevamo questa cosa del, c'era un momento in cui andava di moda il federalismo, ma ricordate quando c'era Fini, quando c'è stata la costruzione dell'Alleanza Nazionale, no? Che andava di moda questa cosa del federalismo, ma il federalismo all'americana o il federalismo alla francese? Ma sti cazzi, anche un pochino, no? Perché ci vogliamo mettere pure questo, no? E quindi praticamente oggi ci troviamo praticamente a vedere tentativi di rendere esecutive delle idee partite dalle campagne elettorali per cercare ovviamente di accontentare tutte quelle fasce dei lettori, i Novax, le stronzate, no? Che poi alla fine comunque alla fine oggi si rendono quasi inattuabili come concetti, ma anche sulla questione dei rave sono tornati indietro. E su tante cose stanno tornando indietro, ma lo stanno facendo in silenzio, in modo che, capito, non facciano le figure dei coglioni, perché se tu non sei capace a governare, se tu non sai come funzionano le cose, non puoi governare un paese. Non puoi, neanche se ti danno mandato gli elettori, non lo puoi fare. Non sei in condizioni. Ed è per questo che sotto ai politici, quelli eletti, in realtà esiste una sottostruttura importante dal punto di vista della gestione politica e della gestione tecnica dello Stato, che stanno lì a prescindere da chi viene votato, perché chiaramente certe cose non si possono fare, è semplicemente quello. Ma comunque pure sulla questione dei rave è interessante, perché adesso non è più chi partecipa al rave, non è più la restrizione sulle aggregazioni, che è anticostituzionale, è un atto di fascismo. Oggi il provvedimento sui rave è atto a colpire chi organizza, e ci può stare, però una Repubblica che si rispetti, una democrazia evoluta, contempla all'interno di se stessa anche azioni, diciamo, di ribellione, di controcultura, di controsistema anche. Lo accetta, la integra all'interno di se stessi. Ovviamente magari tenendo insomma la situazione sotto controllo, ma noi siamo stati quelli che alla fine abbiamo accettato in maniera tacita, grazie a giornalisti, a politici, a industriali che hanno partecipato, la P2, che è stata la più grande organizzazione eversiva del nostro paese, fino a che non ci siamo accorti che questa massoneria tanto elogiata, no? Nel senso, ah, che bella la massoneria, perché grazie alla massoneria che ci sono le democrazie, in realtà era un'organizzazione fascista che cercava di prendere il potere nel nostro paese, no? E ci stavano tutti dentro, ci stava Costanzo, ci stava Berlusconi, ci stavano tutti, ma stanno tutti lì ancora, stanno tutti lì, perché questo è il nostro paese. C'è un paese che ha costruito la Costituzione, che l'ha costruita in maniera tale che si autodifendesse, e c'è un altro paese che era quello che era quello contro il quale questa Costituzione combatte, perché lo sapevano i padri della Costituzione che ci sarebbero stati, perché sono sempre stati all'interno della nomenclatura dello Stato, perché i funzionari fascisti del post-fascismo erano sempre quelli. E tutta questa gente che è ritornata, che cercava di riprendere il controllo di determinate situazioni, senza considerare il golpe borghese di cui abbiamo già parlato tante volte, che alla fine sto borghese voleva fare colpo di Stato, ma alla fine era un coglione. Cioè, gli americani gli hanno detto sì, dai, famo il colpo di Stato. Poi no, non si fa più il colpo di Stato. E questo è rimasto all'agio, ma come non si fa più il colpo di Stato? Non si fa più, ci frega un cazzo, c'erano altri obiettivi. Perché poi questo, no? Cioè, questi qua è borghese, cioè borghese, capito? Stava lì tutto impettito perché l'Italia. Ma sei un coglione, sei, cioè, nel senso, perché poi alla fine tutta sta gente si riduce alla pochezza di quello che rappresenta. Però nel mucchio so tutti macismo, viva l'Italia. Poi dopo alla fine, quando vengono accannati, perché in qualche maniera vengono accannati, diventano niente. E allora dove sta la tua forza macistica e via dicendo? Comunque poi c'è questa questione dei contanti, che è divertente, perché voi sapete quello che penso dei commercianti, quindi non mi fate parlare, non voglio esprimere, perché sennò magari tra di voi c'è qualche commerciante che smette di ascoltarmi, farebbe anche bene. Però in generale questa cosa dei contanti è diventata una guerra tra i poveri, cioè nel senso che per buttare sabbia negli occhi sto governo dice scatenatevi fra di voi, così tanto noi facciamo tutto il resto. Loro si sono presentati come forza sociale, come era l'MSI una volta, cioè nel senso, comunque quella destra sociale attenta alle fasce più povere, strappando ovviamente a una sinistra che non esiste più il compito di ascoltare le fasce sociali. Ma poi in realtà la politica di questo governo è una politica per gli evasori, per l'alta industria, per i datori di lavoro, per tutti coloro che quest'estate volevano entrare in concorrenza con il reddito di cittadinanza, perché dicevano no, in particolare diciamo i proprietari dei ristoranti dicevano non troviamo la gente che viene a fare il lavoro stagionale. Grazie al cazzo, tu per 3 mesi d'estate mi offri 600 euro al mese in nero, e non è il reddito di cittadinanza che entra in concorrenza con te, sei tu che sei uno stronzo. E tutto questo viene ripristinato dal governo Meloni, altro che l'attenzione alla destra sociale. Con questa cosa del contante ne parlavo proprio l'altro giorno, insomma, quando eravamo a cena, dice, tra l'altro molti già lo fanno questa cosa del contante e del bancomat, no? Quindi praticamente in teoria non ci sarebbe dovuto essere più l'obbligo di usare il bancomat praticamente sotto i 60 euro, no? Però questa cosa, a parte che io ho visto e ho sentito, parlando anche con persone, che a Milano già i commercianti attuano questa cosa, cioè nel senso è già in esecuzione secondo loro, no? Però vabbè, al di là di questo, a me mi sta bene. Però il non essere obbligati a farmi pagare col bancomat non significa che io sono obbligato a pagarti in contanti. Sono due cose che non sono sillogisticamente, insomma, collegate, perché tu non sei obbligato, ma comunque il servizio me lo devi dare, cioè non mi puoi impedire, tu non sei obbligato ma non mi puoi impedire, perché io vengo da te, mi magno primo, secondo e terzo, eppure il dolce, quando mi presenti il conto io c'ho il bancomat. Tu non vuoi che io te pago col bancomat? Io non c'ho i soldi. Tu non sei obbligato a farmi pagare col bancomat, io non sono obbligato ad andare con 60-100 euro dentro la saccoccia. Perché possiamo anche mettere insomma un po' così, no? Io non so adesso come la pensate voi. Adesso durante la canzone vi... Oh, scusate. Durante la canzone vi leggo anche un attimino. Però ecco, mi fa ridere, capito, questa cosa di buttare il... sto cercando le parole, ragazzi. Sto cercando le parole perché cerco di... veramente, cioè, come dire, sì, la sabbia negli occhi, perché alla fine tutta la gente che poi dopo si accapigliano tra di loro e non vedono che a livello dei massimi sistemi, insomma, poi alla fine quello che stiamo facendo una manovra finanziaria con la coperta corta, dove praticamente la sanità è stata completamente sderenata. Infatti ne vedremo delle belle quest'inverno. Secondo me è ora che comunque anche le organizzazioni sindacali, anche i rappresentanti delle categorie dei lavoratori incominciano a fare le barricate qua, perché questa sarà una stagione veramente interessante. E poi taxi, ragazzi. Oh, ragazzi, io c'è una categoria proprio che con Michele l'abbiamo raccontato tante volte, insomma, di tutte le esperienze. I tassisti, che so, una loggia incredibile, sono una lobby incontrollata alla quale non si può assolutamente, cioè noi eravamo l'unico paese al mondo dove Uber non poteva operare, doveva operare con le cose alternative, quindi Uber Black, quello insomma di lusso, oppure con altri sistemi, se no niente, non Uber, perché il tassista, capito? E poi il tassista, che è quello che per generazioni ha evaso le tasse in una maniera incredibile, a me lo racconta un tassista stesso, cioè noi magari siamo legati a una cooperativa dei tassisti, dove la cooperativa dei tassisti ci dice: voi dovete dichiarare almeno questo, cioè metti ipotesi 10. Poi loro guadagnavano 100 e non facevano mai ricevute, perché il bancomat non funziona, perché quello non funziona. E io tutte le volte che chiedevo le ricevute mi bestemmiavano contro, cioè, perché non è, capito, come tu vai dal cinese, al negozio del cinese, compri una cosa, ti fa 2 euro e non ti fa lo scontrino, e tu dici: scusa, ma fa la scontrina, quello glielo del culo lì per lì, però tu lo fa lo scontrino. No, questi te bestemmiavano perché loro avevano la forza dietro delle persone che sapevano che potevano fare quello che cazzo gli pareva. Taxi. Vi racconto una cosa, così poi andiamo anche un po' a chiudere. Io quando ero ragazzino, insomma, in particolare dai 12 ai 14 anni, con mia madre praticamente andavo sempre in una clinica a fare delle terapie. E noi abitavamo a San Giovanni, quindi vabbè, re di Roma, e questa qua stava ai Parioli, insomma, vabbè, una volta non è che se girava per Roma così come si gira, poi mia madre rinunciava la patente e via dicendo, quindi prendevamo i mezzi. Praticamente ogni giorno della mia vita per 2 anni è stato condizionato, vabbè, in realtà per tantissimi anni, ma in particolare in quel periodo lì è stato condizionato dal fatto che io quando uscivo da scuola mangiavo, mi riposavo un pochino e poi se partiva, se andava a fare sta cosa e se ritornava, e magari tornavamo la sera tardi, no? E alla fine mio padre, insomma, gli diceva a mia madre: quando ti capita, proprio se ti capita, fatti fare la fattura, cioè magari prendi un tassì, rarissimamente succedeva, e fatti fare la fattura, insomma, no? E mi ricordo, vabbè, mia madre, sai, poi era una persona, insomma, non è che non era una cretina, non era una pappa molla, però insomma era comunque una persona, cioè aveva un suo stile, una sua delicatezza, diciamo così, una sua eleganza, ecco, comunque una persona che ci teneva a parlare in una certa maniera, ci teneva a essere in una certa maniera, cioè aveva insomma tutto un suo stile, ed era bella per quello, poi tutto sommato, no? E quindi una volta ci provavo, diceva: vabbè, dai, tornavo, eravamo usciti alle 7:30 dalla clinica, quindi alla fine non gliela famo, non, cioè proprio non gliela facevamo. Abbiamo chiamato sto tassì, e quando siamo arrivati, parte vabbè la cifra, no, insomma, incontrollata, perché una volta, poi negli anni 80 non è che ci stavano le cooperative, ci stanno oggi, penso ce ne stava una sola, quella comunale, penso, poi magari ce n'erano anche altre, però insomma in generale, e quindi poi sparavano pure dei prezzi, insomma, spropositati. Allora giustamente mia madre, che aveva i dati per fare la fattura, e gli ho detto: scusi, mi può fare la fattura a questa, che se mio padre, avevamo l'azienda, quindi io magari recuperavamo come spesa di lavoro, via dicendo. E questo sì, si è fatto fare i soldi, ha scritto due stronzate, non è che mia madre si è messa lì a guardare. Quindi ha fatto sta cosa che era completamente invalida, completamente, gli ha dato sto foglio a mia madre, cioè, quando mia madre giustamente è andata da mio padre, guarda come sono fatto la fattura, poi mio padre si incazzò pure, poi vabbè, cioè, nel senso si scusò anche, perché ma dovete fare attenzione, che non lo vedi che questa è una niente, non vale niente. Ecco, quindi diciamo che probabilmente nasce da là anche un po' sta cosa, però poi io i taxi ne ho presi tantissimi nella mia vita. Soprattutto quando ero ragazzo e vivevo a Roma, mi è capitato tantissime volte, e quindi questa cosa l'ho sempre vissuta male, perché è vero che, no, quello che ti raccontano, che a Roma c'è il tassinaro simpatico e chiacchierano, però sono tutti stronzi, perché sono cresciuti col fatto che per loro era un diritto. È vero che la licenza del tassì costava centinaia di milioni di lire, non è che te lo regalavano, insomma, come magari può succedere oggi, però, o non lo so poi se succede oggi, perché non è che ho esperienza sulle licenze da sì, però per loro era un, cioè, per loro era normale che era così, come era normale in tante altre cose. Soltanto che mentre il mondo nel frattempo intorno è cambiato, quindi la gente rispetta o cerca di rispettare poi le regole, poi vabbè, sono quelli che culturalmente come categoria dicono, devo, è come quelli che hanno il negozio dei vestiti, che il negozio lo chiudono 60 volte però stanno sempre là. Ci avete mai fatto caso? Quelli che cambiano nome, svendo tutto e poi il giorno dopo ristanno un'altra volta là, no? Che ovviamente è un reset fiscale, no? Però insomma tutto il mondo cambia, tranne che per i tassisti. I tassisti hanno sta cosa che si devono portare avanti, che boh, non lo so. Ditemi che ne pensate, vedo che comunque almeno con Deborah siamo d'accordo, insomma, questo mi fa piacere, perché sennò sembra che sono sempre io il solito che io scaglio, per, soprattutto col commerciante al dettaglio e poi e col tassista. Per me sono delle categorie che a volte è avvenuto, so, questo non c'entra assolutamente niente, ma è una mia rimostranza del tutto personale. Per me è capitato di entrare dentro un negozio, faccio un esempio, ma in realtà questo succede con i negozi dei vestiti in particolare, ma c'è un tipo di negozio divani e divani, no? Quell'altri, come si chiama? Quelli dei divani, no? Che mo fanno la pubblicità 70% di sconto solo per sta settimana, e la settimana dopo 80% di sconto solo sta settimana. Vi è mai capitato di entrare dentro quei negozi e vi guardano come siete delle merde? Cioè, state lì, è entrata la merda. E tu stai lì, che insomma un po' soggezione, poi guardi, poi però guardi da lontano perché c'hai paura di toccare il divano, perché quello pensa che tu sei una merda e sporchi il divano. Cioè, non so se vi è mai capitato, perché scusate, sempre, perché purtroppo devo fare tutto da solo e quindi controllare il coso, la playlist e tutto quanto, insomma, in piccio. Ecco, insomma, a me mi è capitato. Vabbè, dai, un'ultima canzone e poi vi saluto. Belli lo due, belli, per davvero. Spigne, sto a fare come Sbano con le manine, che spigne pulsanti a caso. Vabbè, dai, ragazzi. La tronco un po', belli lo due, però dopo un po' sempre la stessa, sempre le stesse sonorità, sempre gli stessi giri. Comunque, al di là di questa bestemmia sono gli due, che adesso qualcuno mi improprierà contro. Si è fatta una certa. Vi volevo ricordare che questa sera alle 23 torna Runtime by Night, perché abbiamo deciso che Runtime by Night ci sarà la prima e la terza settimana di ogni mese, e quindi questa sera torniamo, c'è pure Debola, sarà tra noi, a meno che non ci sono impegni dell'ultimo minuto. Parleremo di donne, tecnologia, informatica e videogiochi, è un tema sul quale vogliamo parlare anche seriamente, ma vogliamo anche un po' giocare, cioè nel senso, chiaramente, perché voi sapete che noi con Runtime by Night cerchiamo di alternare le puntate un po' più serie con le puntate un po' più easy. Poi sapete, si parte con tema e si finisce a parlare di tutt'altro, insomma, quindi cioè, questa è la bellezza di Runtime by Night, secondo me. E domani mattina alle 8:30 torniamo io e Michela con Disordinati Informati, dove ci sono tante altre notizie dal mondo, ma soprattutto c'è il nostro amico James Webb che sta lì e guarda, che poi ci fate caso, cioè alla fine è uno spione, cioè sta lì, spia, perché insomma è talmente potente. Come abbiamo detto l'altra settimana, poi vorrei fare un post anche su Instagram di questa cosa, insomma, che ha fotografato una galassia talmente lontana che praticamente esiste da quando l'universo esisteva, da 200 milioni di anni, cioè una cosa zero, cioè proprio all'inizio dei tempi, incredibile, bello, bello. A me queste cose poi mi intrippano. Tra l'altro ascoltatevi che è appena uscita, insomma, la puntata di Quando eravamo futuro di ieri sera, dove abbiamo parlato di Spazio 1999, che è una serie bellissima, e con Claudietta Maravalle abbiamo fatto veramente una bella puntata, secondo me anche ben fatta e molto discorsiva. Siamo ritornati un po' al Quando eravamo futuro, un po' più diciamo col punto giusto, perché magari alcune puntate sono state un po' sottotono, sono state un elenco magari di cose, invece è stata una bella conversazione, una bella discussione anche sulla fantascienza degli anni 70. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qua. Rifletterò durante questo weekend e vi farò sapere il destino di questa trasmissione, o se ci sarà un reset, come dice giustamente Deborah, ma soprattutto anche qui regioneremo, perché con Michela abbiamo in mente di fare un nuovo programma, e perché fare la radio da appassionati, stare qui a fare compagnia insieme a voi e ricevere la vostra compagnia, significa anche trovare lo stimolo di parlare di cose che in questo momento ci interessano, perché altrimenti sennò diventiamo degli impiegati di un qualcosa che non ci dà soldi, ovviamente, perché qualcuno mi ha detto recentemente: ma quanto passate 40 minuti? Vi voglio bene a tutti. Ricordate di andare su runtimeradio.it e se avete il modo o la possibilità, c'è il pulsante anch'io per contribuire al nostro progetto, se volete. Se non volete, noi vi vogliamo bene lo stesso. Ciao, e non buongiorno un cazzo, ma buongiorno a tutti.